alla testa degli altri, non andremo mai avanti. I sogni circondati al cuore, poi sono tanti. Non dire che poi tu cercami in un sogno. Io ci ripenso e mi addormento e poi mica ti sogno. La verità è che siamo tanti noi per questo mondo piccolo. Io che leggo cazzate poi in ogni solo articolo. Che poi non siamo mai legati alle nostre origini. Uso la mia testa e sto sangue poi per distinguermi. Non sono un cantante, non sono uno che conta soldi. Ne avessi li conterei, ma so che alla fine sono fogli. Mi sveglio ogni mattina cercando il positivo. Sfogo nello scrivere ogni cosa che penso, poi la rimo. Mi piace molto pensare al rumore del mare. Quando lo sento e lo incontro penso a chi c'è da amare. Faccio del bene, penso solo in mezzo a questa vita. Scogliamo la gente malata da tutta sta calamita. Disegno sogni col pensiero. Dammi il cash anche nero. Non voglio più guardarti negli occhi. Ora penso a me, ho spento tutti i fuochi. Disegno sogni col pensiero. Dammi il cash anche nero. Non voglio più guardarti negli occhi. Ora penso a me, ho spento tutti i fuochi. Usi la coca per essere dentro la tua vita. La tiri, stai bene, dopo un po' ti sarà finita. Io che vedo bene negli occhi della gente, poi la conosco meglio, gli rimango indifferente. Sto cuore chi lo sente, la testa un po' gli mente. Si scontrano ogni giorno, io che sono un po' assente. Penso che se vuoi una cosa è meglio raggiungerla. Di tutto non ce la fai e sta vita vorresti usarla. Siamo mal pensati dalla testa degli altri. Ho una lista di falsi, ti assicuro sono tanti. Sto mondo che sta sempre teso in gravità. Non ci fosse voleremo tutti nell'aldilà. L'amore è una tensione come il primo sesso. Accomuno stelle sogni dentro me stesso. Non è che poi l'amore è tutta una ragione, ma poi ti vedo e vorrei non passassero più le ore. Disegno sogni col pensiero. Dammi il cash anche nero. Non voglio più guardarti negli occhi. Ora penso a me, ho spento tutti i fuochi. Disegno sogni col pensiero. Dammi il cash anche nero. Non voglio più guardarti negli occhi. Ora penso a me, ho spento tutti i fuochi. Siamo qua, ora che siamo insieme. Ti stringo la mano e tutto va bene. Ma poi mi scordo che avevo una passione, dimenticata sotto i sogni rovinati da persone. Non state mai a sentire cosa dicono altri. Ascoltate il cuore che farà vincere in mezzo a tanti.